questo si è presentato un anno fa dicendo che bisognava piantarla con pazza Inter, dopo neanche un anno pazzo è diventato lui. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Le parole rilasciate all'ANSA di Antonio Conte: ho sposato un progetto triennale con l'Inter, come ho sempre fatto nella mia vita, lavorerò duramente, mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente. Sono parole anche per precisare alcune note di stampa, una malinconia bianconera da parte di Antonio Conte. Questo no, questo non c'entra. Ma io non lo esonererei assolutamente, perché quanti allenatori dobbiamo pagare? Mi metterei a un tavolo e gli direi: adesso basta, se te ne vuoi andare te ne vai, non ti diamo più un euro, torna pure alla Juve e io prenderei Zenga. Viva l'Inter! Ma di cosa stiamo parlando? Cos'altro vuole dall'Inter? Ha avuto ciò che voleva. Giocatori che campioni, si deve prendere le sue responsabilità, non scaricare sempre agli altri. È la colpa del calendario, è la colpa di... Ma di che cosa è la colpa? La colpa è soltanto tua. L'hai fatto col Bayern, l'hai fatto con la Juventus, l'hai fatto col Chelsea. Dove sei andato? Hai messo sempre zizzania. Interviene Zhang ed è tregua. Da qui a fine stagione, stop a tutti i discorsi per il futuro. Le tensioni rimangono e la contrapposizione interna anche, ma ora arriva il momento di accantonare questi temi. Nel signor Zhang, io fossi in lui, andrei davanti alle telecamere e direi: il signor Conte deve stare zitto e deve fare solamente il suo lavoro con il materiale che ha a disposizione, chiuso. Se non gli sta bene si dimetta, gli chiude la bocca e vediamo cosa succede. Eccoci qui, io riprenderei Zenga, è un grande classico dell'interismo, buono per tutte le stagioni, un po' come un tempo era Arriva Lavezzi, classico di calciomercato d'estate ed inverno. Carissimo Luigi Pardo, ciao. Ciao. Allora, io ti devo confessare una cosa. Ieri pomeriggio, finita la trasmissione, abbiamo fatto una breve riunione con Claudia Schiattone, che saluto e ringrazio dietro il vetro, e ci siamo detti: beh, però domani Conte no. Domani parliamo di qualche cos'altro, domani ci concentriamo in maniera, vogliamo più alti, no? Discutiamo di altre cose. Poi è arrivata la conversione sulla via di Damasco, la retromarcia, come titola oggi la Gazzetta dello Sport, le cose che abbiamo sentito riassunte nella copertina di Gianmarco Ferronato, e siamo qui ancora a parlare di Antonio Conte. Il tuo radio tweet. Di chi vuoi parlare? Il tuo radio tweet. No, il mio radio tweet è che, insomma, ieri ci eravamo lasciati, la mia teoria era che bisognava capire che tipo di razio ci fosse, no? Che tipo di motivazione ci fosse dietro la sparata dell'altro giorno. Io avevo un'idea, che era quella di una presa di posizione genuina, sbagliata secondo me nei modi, ma genuina, costruttiva, dovuta a un carattere che sappiamo spesso è impetuoso e inquieto, e credo che ieri sia arrivata la conferma di questo. Cioè, io credo che ieri abbiamo avuto la conferma che non c'è una dietrologia, almeno secondo me non c'era, lo pensavo ieri, lo penso a maggior ragione oggi. C'è semplicemente il fatto che Antonio Conte ogni tanto si chiude un po' la vena, è un perfezionista, è un combattente, qualche volta va in protezione forse anche eccessiva di se stesso e del gruppo, e secondo me ha sbagliato l'altro giorno a fare quella presa di posizione, ma non ha in testa la Juve, non ha in testa la voglia di andarsene, semmai ha voglia di chiedere non pieni poteri, ma insomma un clima di ancora maggiore collaborazione per rendere l'Inter ancora più forte. Questa era la mia idea ieri e oggi lo è ancora di più. Tu credi alla retromarcia di Conte? Io credo che lui non abbia un piano in testa. Non penso. Però non gli fai un complimento, cioè così. Perché? Lo lasci un po' in balia all'umoralità. Un giorno dice che se ne va, un giorno dice che deve valutare, poi dice che resta, poi che deve valutare, poi dice che ha sposato un progetto triennale. Io non ho mai pensato che se andasse, a meno che l'Inter non decida che l'uscita dell'altro giorno sia troppo grave, eccetera. Ma secondo me Conte ha parlato, lo dicevo ieri e lo confermo oggi, lo ripeto con un'ancora maggiore convinzione, in maniera costruttiva. Cioè lui è un perfezionista e in certi momenti bisognerebbe conoscere anche di più l'arte del compromesso, della diplomazia, della retorica, e quindi non dire esattamente tutto quello che in quel momento ti viene da dire, no? Lui invece si carica, si fomenta nell'adrenalina del match, succede che tutto l'anno esploda in maniera secondo me sbagliata. Ma non penso che questa cosa qui sia frutto di un disegno, di un calcolo, della voglia di rompere con l'Inter per andare da qualche altra parte. Penso che sia invece un'uscita umana, anche se sbagliata sicuramente nei toni, di chi non si accontenta del secondo posto e vuole andare sempre più avanti. Secondo me, come dicevo ieri, se si ricompone in termini di civiltà e di regole chiare il rapporto, è molto buono per l'Inter, perché di allenatori migliori di Conte ce ne sono pochi. Sì, eviti di ripartire da zero. Allora, voglio sapere cosa ne pensate anche voi. Siamo in diretta, come in tutto questo mese di agosto, fino alle 15.30, quindi grande spazio ai vostri interventi. 800 24 00 24, potete prenotarvi sin da questo momento. Poi soprattutto alle 14.45 daremo ampio spazio alle vostre chiamate da casa, 800 24 00 24, oppure sms e whatsapp vocali o anche scritti, 349 238 6666. Fabrizio Biasini e Franco Ordine, ciao. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Allora, voi credete alla conversione di Conte che pentito ci ripensa e si accorge di aver sposato un progetto triennale o no, Fabrizio? Ma allora... Diciamo che io sono convinto che lui voglia restare all'Inter, ma che voglia restare alle sue condizioni. Bisogna capire se le sue condizioni combaciano con l'interesse della proprietà. Cioè le parole di ieri secondo me sono anche un avviso ai naviganti. Guardate che io non ho nessuna intenzione di andarmene, se proprio volete cambiare dovete farlo voi, io da qui non mi muovo. Quindi diciamo sicuramente cioè, tradotto, scordatevi che sia io a fare il bel gesto di mettermi, lasciare lì i soldi dicendo come fanno tanti che la questione economica è l'ultimo dei problemi di fronte all'impossibilità di lavorare come si vuole, non eccetera, credo. Cosa che tutti noi facciamo, no, del resto, anche quotidianamente certo. Sul nostro posto di lavoro, no, perché per qualche ora si è anche detto questo, vedrete che sarà lui a fare il passo indietro. No. Questa cosa non accadrà, ma io comunque resto convinto che lui intimamente vuole andare avanti con l'Inter, però ha fatto capire molto chiaramente, e sono d'accordo con Pier, non nei termini corretti, perché tu non puoi andare in piazza e dire la mia azienda non funziona, la mia azienda non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. L'ha fatto nei termini sbagliati, però ha fatto capire che lui vuole determinate cose. E da quelle lui non torna indietro, secondo me. Cioè, quando decideranno di chiacchierare, lui dirà, io voglio che mi mandate via questo e quest'altro, prendete questo e quest'altro. E bisogna capire se dall'altra parte saranno disposti a farlo oppure no. E non stiamo parlando di giocatori, per cui magari potrebbero anche di giocatori, che poi posso essere d'accordo sul fatto che non si può lamentare, lo dicevamo anche ieri con De Caro e Labate, cioè secondo me se guardiamo la media degli allenatori e quello che viene accordato agli allenatori in Italia, insomma, Conte non si può lamentare. La cosa che secondo me non può passare, cioè il fatto che da 48 ore è passata l'immagine dell'Inter come di una società dove non funziona niente. In realtà io ho la visione troppo interista della cosa, ma a me sembra che se c'è una società che funziona in questo momento in Italia è l'Inter. Sì, ma non devi dirlo a noi però, Fabrizio. Lo so, manda un SMS ad Antonio Conte. Franco, la tua opinione? La mia opinione è questa, è che parlate di Conte senza sforzarvi un attimo, per un minuto soltanto, di conoscere Conte. Oggi c'è una, secondo me, bellissima intervista sul Corriere dello Sport a Giorgio Perinetti, che ha avuto l'avventura di lavorare al fianco di Antonio Conte a Bari e a Siena. E lui racconta che a Bari lui fa un campionato strepitoso col famoso 4-2-4, arriva prepotentemente in Serie A, a un certo punto gli avevano fatto delle promesse a proposito del suo del mercato, non gliele mantengono all'inizio. Perinetti gli dice: porta pazienza Antonio, vedrai che poi alla fine lo faremo. Vedrai che tu alla fine di agosto avrai la squadra come dici tu. Lui non ci sente, e se ne va. Molla tutto e se ne va. Questo è Antonio Conte. Quindi è un cavallo di razza che davanti all'ostacolo a un certo punto si imbizzarrisce e quindi o tu sei consapevole quando lo porti ad Appiano Gentile che devi anche fare i conti con questo tipo particolare di carattere, oppure altrimenti se cominci a fare il permaloso, ah ma tu hai detto, ah ma tu hai fatto, vabbè allora fate la guerra. Però Franco, nella vita poi si cresce anche, perché un conto è fare questi numeri inizio carriera, tra l'altro sì, se lo recuperiamo lo sfogo prima di Modena-Siena è qualcosa di leggendario, a proposito di salita su quel cavolo di carro. Nella vita si deve anche crescere, un conto è farlo lì, un conto è farlo con Abramo, se tu prendi Conte, adesso qua siamo quasi alla psicanalisi, lo prendi un po' anche perché ti faccia così. Poi io ripeto, secondo me lo sfogo dell'altro giorno non l'ho capito nei tempi, veniva dopo una grande vittoria dell'Inter in un momento in cui l'Europa League da giocare, cioè per me è sbagliato, voglio essere molto chiaro, però io dico che quando tu prendi Conte lo prendi perché è così, perché è incontentabile, perché sai che ti romperà le scatole, anzi ti romperà i hai capito insomma, questo va benissimo, lo prendi perché vuoi cambiare, perché hai bisogno di uno che non si accontenti. Sono d'accordo, l'unica cosa che non può passare, io sono assolutamente d'accordo con te e va benissimo così, cioè deve alzare l'asticella ed è perfetto. L'unica cosa che non va bene, cioè se Giovanni entra a Radio 24, prende il microfono e dice in questa radio non funziona niente, dov'è il mio direttore, non capisco niente. Non credo che il giorno dopo il direttore sarà felice. No, ma non arrivo al traffico, per intenderci. Non doveva farlo in pubblico, attenzione. Il tema vero è la comunicazione. Cioè, un conto è farlo in privato, minacciare le dimissioni e dire io non ci sto in un progetto che non mi piace, dove non ho il controllo di certe cose, e un conto è farlo in pubblico. Lui 2-3 volte quest'anno l'ha fatto in pubblico e sicuramente è un errore, io lo ribadisco, cioè non penso che lui abbia fatto bene, lui ha fatto male l'altro giorno, lui alla fine della partita doveva andare la Zhang Marotta a dire guardate abbiamo fatto 82 punti come l'anno del triplete, siamo tornati secondi, siamo questo, ma a me se non mi date questo non me ne frega niente e me ne vado. Però perdonatemi, io voglio provare a portarvi un attimo però al cuore del tema, e cioè allora, posto che sicuramente lui vuole dire qualcosa di più sul mercato, Eriksen non gli è piaciuto, avrebbe voluto Vidal e mille altre situazioni, anche se poi in questa schizofrenia comunicativa lui prima dice che Sensi e Barella sono due ragazzini, poi dice che sono due giocatori bravissimi, poi dice che è un pacchetto preconfezionato, poi dice che sono gli unici i giocatori che si meritano il risultato che hanno ottenuto, e anche qui insomma è un po' faticoso trovare una linea, ma la seguiamo. Detto questo, quello che a me pare sfugga è un conto è dire voglio parlare con la proprietà per discutere del prossimo mercato perché non succeda il caso Eriksen, e un conto è voglio parlare con la proprietà perché voglio passare sopra all'amministratore delegato, magari cambiarlo, magari cambiare il direttore sportivo, tutto l'ufficio comunicazione, magari ho qualcuno da segnalare io e da portare dentro. Allora mi sembra che siamo non solo come forma ma anche come contenuto un attimo oltre quelle che sono, no Franco, le possibilità di un allenatore e anche i limiti caratteriali che possono essere la forza di un uomo. Però la tua descrizione attuale, la tua narrazione parla di un Conte che vuole diventare padrone dell'Inter e secondo me è sbagliato anche dal punto di vista dello stesso Conte. Noi dobbiamo dare... Ma lui ce l'ha o no con Marotta, per intenderci? Ma secondo me qualche volta ce l'ha, ma chi conosce bene come sono andate le cose sa benissimo che Marotta ha fatto il matto durante il lockdown per impedire che si ritornasse a giocare, non perché lui avesse maturato questo convincimento, ma perché era il convincimento di Antonio Conte. E se parlate con il CONI sentirete anche di un colloquio Conte-Malagò durante quel periodo. Quindi a questo punto che cosa mi fa pensare tutto questo? Mi fa pensare che appunto non è tanto la persona, non è tanto il ruolo, perché sarebbe secondo me ingeneroso nei confronti di Marotta. Il punto essenziale è questo. Lui dice il secondo posto, ma che mi interessa il secondo posto, che il primo dei no per te. Poi arriva secondo e dice adesso mi raccomando che nessuno salga sul carro dei vincitori, a parte il fatto che non c'è nessun carro per il secondo posto. Ma questa contraddizione palese, evidente, è proprio l'idea dello zigzag della sua comunicazione. E quindi se voi andate dietro alla sua comunicazione in maniera letterale, diventate matti più di lui. Il problema è che ci vuole qualcuno che dica: ha detto questo, vabbè, lasciato sfogare, poi dopo vediamo. Questo è il punto. Quel qualcuno doveva essere Marotta, però. Almeno Marotta. Lo è. Secondo adesso, Conte, o non c'era o dormiva il giorno che hanno fatto i calendari. Il problema è se si comportano in maniera da considerare Conte non come Antonio Conte in persona, ma come un pazzo scatenato, Zhang e tutta la dinastia cinese. Il tema è questo, il problema è questo, il nodo è questo. Il nodo, Franco, è anche che Marotta adesso dovrà essere molto bravo, e lui è il numero uno a fare certe cose, ma questa secondo me è un'impresa complicata, riuscire a rimettere tutti tranquilli, perché c'è una tensione, secondo me, senza senso, immotivata. E si è creato una tensione. Batti il Getafe e passa, dai, io non lo so. Per me sì, cioè voglio dire, per me è un tema più di poi, però metti che batti il Getafe, Marotta risponde a due domande in diretta dicendo sono stati tutti Marotta bravi e Conte impazzisce di nuovo. Marotta, scusate, non risponde. No, ma anche dice una cosa bella, tipo siamo ai quarti di finale. Marotta ha superato l'esame il giorno in cui da Torino piomba ad Appiano Gentile e si ritrova dinanzi a un altro scatenato come Spalletti, che dice qui devi cacciare i carte, qui se ne deve... prima, un giorno prima gli dice adesso devi fare il contratto, i carte, due giorni dopo mandalo dice, adesso lo devi cacciare e gli devi togliere la fascia da capitano. È uscito indenne da questa tempesta. Allora, è uscita alla grande, l'Inter è uscita alla grande da quella partita, e tanto per essere sull'attualità stretta, l'Inter ha chiuso l'accordo con Sanchez e sappiamo quanto lo volesse Conte. Cioè, io quello siamo sicuri, ragazzi, io faccio l'ironico, siamo sicuri che lo volesse Conte, cioè o Conte dei giorni pari o dei giorni dispari, no, nel anche senso. Questa, scusatemi, è una riprova, cioè, se tu riesci a prendere Sanchez, secondo me è un grande colpo, è un grandissimo colpo. No, ma soprattutto, scusami, visto che è stato imputato anche all'Inter di essere la squadra che chiacchiera, no? Io ho letto nell'ultimo mese e mezzo 700 nomi accostati all'Inter. Gli unici due che non sono stati accostati all'Inter sono Hakimi, che è arrivato, e Sanchez a zero, perché tutti dicevano 16-18 milioni. E allora vuol dire che evidentemente sanno fare le cose anche in silenzio. Ragazzi, l'Inter sta lavorando bene e Conte sta lavorando bene. Il punto è che Conte ha questo carattere qui, che è fatto di adrenalina, di perfezionismo, e qualche volta gli esce qualche uscita stonata, che io non giustifico assolutamente, ed è fondamentale che si siano chiariti nella sostanza. Ma secondo voi è un chiarimento quello che è stato fatto filtrare poi ieri dall'Inter? Quindi telefonata cordiale, concentriamoci sull'Europa League, poi ne riparliamo dopo, o è semplicemente rimandare la resa dei conti più avanti? No, è evidente che è una tregua, per il momento è una tregua. Cioè, tregua o pace, o chiarimento, secondo me è più una tregua. Questa è una tregua fatta filtrare volutamente dalla parte cinese della società, ma è evidente che trattasi di tregua. Ma il problema è che ad Antonio Conte, che sia tregua, che sia pace, che sia dichiarazione di guerra intestina e sotterranea, non gli interessa granché. Quello che gli interessa è quello che succede domani sul campo, dopodomani con Getafe e magari a fine Europa League. Quello è quello che interessa. Questo è il punto di vista. Noi continuiamo a guardare Antonio Conte con gli occhiali tradizionali della comunicazione del calcio, dei ruoli nel calcio, e lui continua a guardare noi come se fossimo. Però Franco, il dato di fatto è che nelle ultime 48 ore si sarebbe parlato, io credo quasi certamente, di Juventus-Lione di venerdì. Invece nelle ultime 48 ore sotto i riflettori ci sono i difetti. Ma questo questo è un aspetto che non gli, interessa zero. Ho capito, però se fai parte di un'azienda devi valutare anche queste cose. Questo è un errore, ma da questo errore qui pensare che sia un trabocchetto, un tranello di Conte che se ne vuole andare, che è già d'accordo con la Juve. Ma no. Siccome ieri si parlava di questo e ci sono autorevoli, e lo so, no, autorevoli giornalisti che hanno questo tipo di scusa, e legittimamente, perché è chiaro che quando Conte fa una strada così il dubbio te lo fa venire. Io non penso che non sia così, io penso che sia, e lo ripeto ancora una volta, uno stimolo sbagliato di una persona che però sta lavorando bene in maniera costruttiva in una società che sta lavorando bene, perché una società che ieri chiude la questione Sanchez sta lavorando bene, una società che prende... Siamo tutti d'accordo sul fatto che stia lavorando bene, tranne uno. che è diretto protagonista. Il problema vero è quest'altro, e cioè, ripeto ancora una volta, quando Pier dice ci sono autorevoli giornalisti che pensano che lui stia strizzando l'occhio alla Torino, alla Juventus, è proprio questo il peccato originale del nostro calcio, e cioè quello di considerare e giudicare tutti con lo stesso metro. Gli uomini non sono uguali, non soltanto nel talento, ma anche nel temperamento e nei comportamenti. Però Franco, perdonami, ok, Conte lo dobbiamo prendere con tutti i livelli interpretativi del mondo perché ha quel carattere, e lo hanno scoperto in federazione, l'ha scoperto il Chelsea, magari un giorno ne parliamo col presidente, ex presidente Tavecchio, di come sono stati entusiasmanti ma anche difficili gli anni di convivenza con Antonio Conte. Però detto questo, e poi se la vedranno fra di loro, ieri Repubblica pubblica una notizia che ritiene di avere, non è una questione di interpretazione caratteriale. Conte smentisce, se farà la querela, se la chiariranno fra di loro, noi non stiamo qui a fare i giudici da una parte o dall'altra, ma era una cosa diversa e io credo anche obbligatorio a quel punto in un modo o nell'altro da parte di Antonio Conte smentire, uscire allo scoperto, precisare, insomma, poi dopo faccia lui quello che vuole. Mi piace però ripartire, 800 24 00 24, vi aspetto, prenotatevi per intervenire fino alle 15.30. Mi piace ripartire da quello che ha detto prima Fabrizio, provando un po' a spostare su altre storie e altre vicende, perché alla fine chi dovrebbe fare, secondo me, un monumento veramente in oro ad Antonio Conte in questi giorni è Maurizio Sarri. Non si sta più parlando di Sarri, di Lione, dei problemi della Juventus, e per 48 ore si è parlato, no, Pier, soltanto dell'Inter. Sì, questo sicuramente, ma infatti io ti ripeto, secondo me l'uscita di Conte è sbagliata. Io non è che te lo sto assolvendo, solo che lui ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, perché lui va in società, ne parla, ne è chiuso, perché altrimenti appunto si mette in una condizione in cui uno può pensare veramente che abbia un accordo sotto banco con la Juve, che voglia andare all'estero, che si sia rotto le scatole, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che lui ha, dal punto di vista mediatico, sposta l'attenzione in un momento in cui sta facendo involontariamente un favore a Sarri o no? Esatto. Sì, sta facendo un favore a Sarri e sta facendo uno sgarbo a se stesso, perché chiude la stagione con una grande vittoria a Bergamo, 82 punti, e invece di parlare in positivo dell'Inter si parla di baruffa, no? E quindi è proprio l'ABC della comunicazione. Lui ha sbagliato, però io rimango convinto che abbia sbagliato per carattere, per foga, perché delle volte non si controlla e non perché abbia chissà quale piano contro la società per andarsene. Questo è quello che penso io, e credo che lui veramente abbia in testa un progetto. Sì, con l'Inter. Il piano triennale, insomma, di cui ha parlato anche ieri in quel breve dettato all'Ansa. Volevo spostarvi nei tre minuti che ci restano su invece le 72 ore, le 96 ore che dividono Sarri dalla partita della stagione, quella con il Lione. Scherzando, no, Franco dovrebbe fare un monumento ad Antonio Conte. Poi la verità è che se togli dalle pagine la questione Conte-Inter, resta che questa è una settimana di un'importanza capitale per il calcio italiano e anche per il destino tecnico della panchina della squadra in questo momento più forte, più importante, dominante. Sì, no, questo è evidente che i riflettori accesi sulle vicende dell'Inter e di dichiarazione di Conte tutti i retroscena veri o presunti, poi lo stabilirà il tempo, hanno, diciamo, tra virgolette, sottratto ai giornali, ai media, al dibattito, a tutti noi, l'altro argomento, che è questo. Però io dico che adesso è esaurita un po' la carica delle 12 partite in 40 e passa giorni, esaurito anche l'analisi su quello che è successo, sulla ricomparsa del Milan e compagnia bella, sul giallo dell'assenza di Ilicic, eccetera. Io penso che adesso siamo nelle condizioni ideali, a dispetto di quanti dicevano che saremmo andati incontro ad un massacro, che ci sarebbero stati 27.544 infortuni. Sì, non è successo nulla di tutto quello. Che poi avremmo avuto 12.933 contagiati, eccetera. Non è successo assolutamente nulla di tutto questo. E probabilmente si è data una risposta anche dal punto di vista dell'efficienza e della capacità da parte dei medici, che si rifiutavano di far giocare i giocatori in quelle condizioni. Ecco, tutte palle, tutte clamorose palle. Adesso siamo nelle condizioni. Quindi, come mi classifichi invece il dibattito intorno alla ripartenza? 12-19, sarà il 19, ma si giocherà probabilmente anche il 3 gennaio. Una settimana in più, sì. Avrà la sua importanza soprattutto per Mancini. C'è chi, come il Napoli, credo, voleva andare a ottobre. Sì, lui a ottobre poi doveva mettersi d'accordo con il CIO per spostare per un altro anno le Olimpiadi, e con l'UEFA per spostare di un decennio l'Europeo. Ma lasciamo perdere queste trovate bizantine. Il problema vero, secondo me, è uno soltanto, e cioè la capacità di recuperare, non tanto dal punto di vista fisico, perché i 40 giorni hanno fatto da super preparazione, dal punto di vista dei nervi e dal punto di vista della capacità. Io sono leggermente preoccupato per l'Atalanta, perché l'ho vista nelle ultime partite da Milano, da San Siro Calante, in avanti un po' sgonfiarsi, e questo un po' mi preoccupa leggermente. E invece io sono assolutamente convinto che dal punto di vista nervoso e dal punto di vista della capacità di rimontare il risultato, la Juventus ci sarà. È aperta solo la questione Napoli Barcellona. Quindi, allora dai, quante proviamo e poi vi saluto e vi ringrazio. Quante ne portiamo a Lisbona su tre? E beh, una c'è già, che è l'Atalanta. E quante ne portiamo in Germania per l'Europa League? 2 su 3 in Champions, e secondo me tutte e due di Europa League. Tutte e due di Europa League. Fabrizio? Sono d'accordo, concordo con Franco. 2 su 3 Champions, sia Roma che Inter in Europa League. Dico che l'Atalanta, secondo me, dopo la partita super con la Juventus, ha rallentato un po' anche strategicamente. E invece la Juventus, voglio capire se gioca e passa per Sarri o gioca e passa solo per se stessa. Grazie a tutti e due, Franco e Fabrizio. Saluti. Ciao. Stai lì, Pierre. Alessio da Livorno, Alessio. Buongiorno, volevo ritornare un attimino sull'argomento Conte. Sì. Allora, la prima riflessione, un ospite prima ha detto che ha fatto, come posso dire, un gesto cattivo dopo il secondo posto. Probabilmente non sapete chi è Conte, perché per lui il secondo posto è come probabilmente essere arrivato ultimo. Credo che il personaggio sia ormai noto, nel senso che ricordavate che a Bari, dopo una, come posso dire, una stagione valida, ha comunque contestato la società. Già dalle cese allenare il Bari dà delle indicazioni particolari. Alla Juventus stessa, per arrivare tra virgolette ai giorni nostri, fu quello famoso della battuta dei 10 euro per andare in un ristorante da 100, voleva i turbe per forza e fece un macello perché non fu comprato i turbe, e credo che ora, mi dispiace per quel ragazzo, ma probabilmente fa il gelataio da qualche parte. Non fa il gelataio, però diciamo non è stato un giocatore condizionante e dominante, questo no, vabbè, senza dubbio. Facevo con tutto il rispetto per i gelatai, che in questo periodo sono assolutamente corteggiatissimi, adorabili tra l'altro in questa stagione, ci mancherebbe scherzo. Altro no, cioè, dico, il personaggio è quello, ha chiuso come posso dire, il contratto con la Juve come sappiamo, ha chiuso con la Nazionale come sappiamo, ha chiuso con il Chelsea con una causa. Sì, però ripeto Alessio, allora Conte lo conosciamo, la sua carriera pure. Io sostengo e dico che poi nella vita ogni tanto si impara anche, non dico dagli errori, perché magari non sono stati errori, ma si chiamano esperienze. E alle volte si prova anche a modellare se stessi, il proprio carattere, il proprio approccio al lavoro, agli altri, e all'empatia che ti lega a tutto ciò che c'è intorno. Però è quello che penso io, pensa Pier, pensa Franco Ordine, Antonio Conte la pensa diversamente, chi lo conosce sa benissimo cosa si è portato in casa. E adesso noi ci sediamo qui, Pier, e aspettiamo anche di capire come va a finire questa tregua. Forse anche lui abbiamo quando la borsa. Quando si è risentito, dici? Ma io penso di sì, cioè io non credo, io ci vedo molto istinto. E però ripeto, si prende Antonio Conte sapendo che ci potrebbe essere in certi momenti un'uscita come questa, perché si vuole uno shock e quindi secondo me in qualche modo lo shock c'è stato di sicuro. Sì, c'è stato, ma secondo me è ricomponibile, ripeto, a meno che lui non abbia invece in testa un piano, ma mi sembra un'ipotesi che non esiste. Io non credo che ci sia un piano. Allora, c'è la borsa 800 24 00 24. A proposito di borsa, quando torniamo fra un minuto parliamo della Roma, perché questa è la milionesima settimana decisiva per la cessione del club, sempre Pallotta permettendo. Che peccato, ancora una volta l'Inter si autodistrugge e avrebbe potuto anche pensare che c'è l'Europa League e ne sarebbe valsa la pena cercare di vincere. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Allora, intanto che aspettiamo di aprire la pagina dedicata alla Roma e alle possibilità che questa sia la settimana decisiva per la cessione del club, Pallotta permettendo, carissimo Pier, volevo chiederti che cosa ne pensi di quello che scrive oggi France Football, e cioè che Ronaldo si sentirebbe prigioniero di Torino e della Juventus, club che da lui sarebbe definito non all'altezza delle sue ambizioni, e quindi avrebbe in testa di andarsene, magari per andare a Parigi. Ma che ne penso? Cioè, qui è un atto di fede rispetto al lavoro di alcuni colleghi, e quindi questo è, insomma, è ovvio che non ad oggi non sia stata la stagione più esaltante in assoluto della carriera di Cristiano Ronaldo, anche se poi quest'anno ha fatto meglio rispetto all'anno fa, segnato di più, ha trovato almeno dal punto di vista realizzativo sicuramente più feeling, e complessivamente, insomma, considerato l'età che non è più giovanissima, siamo arrivati alla fine del secondo dei 4 anni di contratto e mi sembra che il suo lo stia facendo pienamente e in linea con quella che era la qualità. E poi in realtà ufficialmente lui mi sembra che abbia anche detto che adesso cercherà il terzo scudetto, il che significa implicitamente restare ancora un anno a Torino. Sì, tra l'altro secondo scrivendolo France Football noi registriamo e ne parliamo. Secondo alcuni miei personali exit poll, cioè alcune testimonianze che ho raccolto, io non ero a Torino, ero a Bergamo l'altra sera durante la festa di premiazione, sembrava veramente forse il più felice di tutti, il più esuberante di tutti. Mi sembra un uomo all'interno della squadra, comunque con un ruolo preciso, consapevole della sua leadership. Insomma, io non vedo delle avvisaglie di questo tipo. Poi sai, Cristiano Ronaldo è uno che dopo Real Madrid e Liverpool a Kiev, in un clima di festa, improvvisamente fa capire che voleva fare altre cose e va alla Juve. Quindi cioè, stiamo parlando di giocatori talmente grandi, è un po' come il discorso di Messi, no? Se vuole chiudere, chiude. Cioè, fa quello che vuole nella vita e c'è poco da fare. Conta lui, conta il suo orizzonte di scelte personali, il suo entourage, le persone che gli vogliono bene. Però io queste avvisaglie non le vedo. No, neanch'io. Però registriamo. Rino da Modena, Rino. Pronto? Vai. Ma io una domanda semplicissima, io sono interista della vita. Una squadra di calcio è come un'azienda, no? Sì, però devi abbassare la radio. Pronto? Rino, sì. Pronto? Rino, devi spegnere la radio, altrimenti insomma... spento la radio, c'è stata un'interferenza esterna qui nel centro. Vai. Allora, un'azienda di calcio, sì, è un'azienda normale, è un'azienda normale, e c'è un direttore generale che è Marotta, e c'è un direttore del personale che è Conte. Io ho gestito anche dei magazzini. Il confronto è quasi quotidiano. È possibile che uno sembra che non sa niente dell'altro. È incredibile questa cosa. Qualcuno se ne risponde. ti faccio rispondere da Pierluigi Pardo, Pier. Ma io non so se in realtà una società di calcio sia un'azienda normale. A parte, bisognerebbe capire il significato d'aggettivare. Non voglio farla troppo filosofico. Normale si intende, però, con una gerarchia normale dove c'è un azionista di riferimento, c'è un amministratore delegato, magari due. C'è il direttore generale, il direttore del personale. Però è anche una società nella quale il ruolo di un allenatore, soprattutto di un allenatore pesante, conta molto. Sappiamo che in Inghilterra c'è la figura del manager, che ha delle responsabilità anche sul mercato e sulla gestione amministrativa molto più forte rispetto a quello che succede in Italia. Probabilmente Conte ambisce a un tipo di ruolo di questo genere, o semplicemente ambisce a fare in modo che le persone che lavorano con lui lo accontentino di più. E qui torniamo alla sostanza della questione, perché ripeto, secondo me lui non ha voglia di andare via, secondo me non ha del tutto ragione. Cioè, la società sta lavorando bene, è che lui è incontentabile, per cui su Eriksen si può discutere, ovviamente, lo sappiamo che non è il giocatore che lui amava di più e che era maggiormente funzionale al suo progetto tattico, però è stata un'opportunità di mercato, l'Inter se l'è presa. Poi io vedo che in tante altre questioni mi sembra che Conte sia stato accontentato, quindi ripeto, è un insaziabile, torniamo lì e ci sediamo ad aspettare di capire come va a finire. Per me è lì, ma ti ricordi Dortmund? Sì, però almeno lì c'era l'alibi che veniva dopo una sconfitta bruciante in campo. Diverso è lo sfogo di Bergamo. Mi suggerisce un amico, carissimo Pierre, se si lamenta Conte, pensa cosa dovrebbe dire Fonseca all'altro che prepara l'Europa League. Sì, io penso che in questa stagione possiamo fare più. Sì, penso che possiamo fare più. Partiamo con fiducia, ma non è facile vincere l'Europa League. Prima abbiamo una partita con Sevilla, che è una squadra che ha vinto tante volte l'Europa League, è una partita difficile, e sono tutte squadre molto, molto forti. Fonseca, che è veramente, Pier, allenato in mezzo a un contesto, a una situazione difficilissima, quella della Roma di quest'anno. A livello societario saluto Matteo Pinci di Repubblica. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno Pier. Ciao Matteo. Allora, tu oggi scrivi: Roma venduta entro 5 giorni, nel senso che siamo arrivati alla mitologica settimana decisiva, se non fosse che da qualche mese lo siamo. Però, pallotta permettendo, perché ci sono i segnali che questa sia veramente la settimana decisiva? Ma guarda, perché il tempo è scaduto, questo dicevano ieri anche qualcuno che la società la conosce bene dall'interno, che la frequenta bene dall'interno. Il tempo è scaduto, Pallotta non può tecnicamente più andare avanti, nel senso che credo che in questo momento la Roma facciano fatica anche a concludere un'operazione, per dire, per tesserare un sedicenne lituano, non dico cose a caso. Dove servono veramente pochi euro, perché liquidità non ce n'è, perché Pallotta e i suoi soci non hanno alcuna intenzione di investire altri soldi nella Roma. Lo hanno dimostrato quando c'è stato da pagare la rata degli stipendi precedenti, di fatto effettuando un prestito. Se un proprietario effettua un prestito ad interesse, evidentemente non ha voglia di regalare o di investire altri soldi all'interno della società. Siamo arrivati al punto di svolta perché entro pochi giorni Friedkin aspetta una risposta. Credo che non abbia ancora fatto arrivare un'offerta vincolante, ma abbia fatto arrivare un'offerta, diciamo, definitiva, che è intorno ai 500 milioni. Pallotta non può permettersi a questo punto, in queste condizioni, di farsela scappare, ma contestualmente non è l'offerta che vuole, e quindi ha probabilmente alzato una piccola asta, chiamiamola così. È ovviamente un modo piuttosto gergale e sicuramente poco corretto per definirla, ma sicuramente anche chiaro. A questa asta si sono iscritti alcuni soggetti, credo che ne siano rimasti oltre Friedkin 3. Di questi tre soggetti, l'unico che probabilmente è disposto ad accettare tempi così, o meglio, a farsi andare bene anche controvoglia, tempi così stretti per provare a far ad arrivare un'offerta vincolante, è un soggetto del Kuwait, sul quale Fahad al-Bakr. Esattamente. Che è un po' spuntato, Matteo, fuori dal nulla, e che di fatto finirebbe, se le cose vanno così, finirebbe quasi per comprarsi la Roma al buio, par di capire. A scatola chiusa, al buio, assolutamente. Nel senso che sì, i documenti sono stati accessibili, che è stata costituita una sorta di data room in cui era possibile visionare i documenti, però per capire un pochino di che cosa si parla quando si parla di visionare i documenti, Friedkin ha avuto bisogno di 3 mesi e ha speso 10 milioni di euro per, tra due diligence, diciamo operazioni preliminari alla chiusura dell'affare, 10 milioni di euro e 3 mesi. Pensare che si possa risolvere tutto con una data room, francamente mi sembra limitativo, anche perché la Roma ha una costellazione di credo 12 società più o meno che le ruotano intorno e che ne fanno parte. Ogni società ha un proprio bilancio o quantomeno una propria struttura che va conosciuta, insomma, secondo me non è semplice. Effettivamente è così. Se questo soggetto, chiunque non sia Friedkin, la comprerebbe eventualmente al buio, che è il motivo per cui la logica lascia pensare che alla fine comprerà Friedkin. Arriverà Friedkin, esattamente. Faccio però, fatica a chiederti se, secondo te, per chi dovrebbero fare il tifo i tifosi la Roma? Per la Roma. Sì, perché altrimenti c'è da farsi venire, no, Pier, il mal di testa. E da questo punto di vista io penso che Fonseca abbia veramente fatto un piccolo miracolo, perché è vero che arriva quinto e sta fuori dalla Champions League, ma fa 70 punti in un'annata anomala per milioni di motivi che abbiamo descritto in tutti questi mesi. Un anno fa con 70 punti sarebbe arrivato terzo in classifica. Sì. No, Fonseca ha fatto bene, ha avuto secondo me delle alternanze di rendimento che un pochino ci fanno svalvolare, no, nel giudizio, nel senso che ha fatto benissimo nell'emergenza assoluta del girone d'andata, diciamo fino alla fine del 2019, poi si è disunito in un momento in cui teoricamente aveva la squadra, poi ha avuto il problema di Zaniolo, che secondo me non è secondario, perché ragazzi Zaniolo è una cosa impressionante. Zaniolo è impressionante, questo va detto, cioè in campo ha una capacità di sgasare. Ne parlavamo l'altra sera con Federico Balzaretti a cena dopo Atalanta-Inter, guardando gli highlights di Juve-Roma, non è la prima volta, cioè ha dei colpi, è un talento incredibile. Quindi, ha detto Capello che è un giocatore che potrà vincere il pallone d'oro. Non quest'anno, ovviamente, perché non viene assegnato, e perché è presto, ma diciamo nel corso della sua carriera, il che però penso, vado per intuizione, significhi anche andare via da Roma. Per mille ragioni economiche del club, non è detto, o di svolgimento della carriera. Non è detto, no. dipende molto anche da chi arriva, nel senso che Manchester City fino a qualche anno fa non era niente, il Paris Saint Germain fino a qualche anno fa non era niente. Ora non è Friedkin o in questo momento insomma il più ambito fra i possibili futuri proprietari che ci sono in giro per il mondo, però non è detto che non abbia invece voglia di fare grandi investimenti. Su Zanga all'inizio c'era un po' di curiosità, mi sembra che gli investimenti li stia facendo. Insomma, dipende sempre da quanti soldi hai e quanto focus in termini di investimento dai a una società di calcio. Oggi il mercato da questo punto di vista è globale e quindi certo è una fase cruciale, sicuramente è una fase cruciale per la Roma, perché Pallotta sicuramente è vituperato e criticato anche giustamente, ma la continuità di rendimento non è stata male della squadra. C'è stato il piccolo, si fa per dire, dettaglio che la squadra non ha vinto, e quando non vinci alla fine il tifoso si arrabbia. E poi ci sono state secondo me da parte di Pallotta delle defiance clamorose dal punto di vista della comunicazione, del rapporto con i tifosi, che potevano essere corrette secondo me con un atteggiamento un po' più di ascolto della realtà romana, senza sdraiarsi, senza diventare supini, ma consapevoli del fatto che comunque, come diciamo sempre, i tifosi hanno un ruolo, sono il tuo mercato. Però siamo in ritardo sul traffico, non apriamo questo capitolo, certo. Altrimenti avremo da discuterne, perché esatto. del rapporto con gli ultras, sai che abbiamo visioni abbastanza diverse. Anche con i tifosi delle tribù, con tutti i tifosi, con gli ultras. Sì, ma lui il problema ce l'ha avuto con quelli della curva sud, principalmente, quelli che lui ha definito fucking idiots. Io penso, Matteo, non so se lo possiamo tenere 2 minuti. Allora, parliamo così, siamo in ritardo sul traffico. Dai. Se Matteo vuole e può, lo teniamo 2 minuti, così gli chiediamo la chiusura sulla questione Roma-Pallotta e magari anche Zaniolo, e poi spazio agli ascoltatori. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, siamo in credito dell'ultima considerazione di Matteo Pinci a proposito di Pallotta, il suo legame che si è sfilacciato col passare dei mesi con Roma, e magari anche capire se Zaniolo è veramente la trincea di quest'estate romanista, per evitare di dare proprio il segnale di smobilitare. Beh, dipende come la vogliamo vedere, ma certo una società che passa di mano farebbe fatica a presentarsi cedendo il miglior giocatore della Roma, no? Perché credo che, come diceva giustamente Pier poco fa, difficilmente difficile dire che Zaniolo in questo momento non sia il miglior giocatore della Roma, basta vederlo prendere palla. Ecco, più che altro, al di là poi migliore o peggiore, probabilmente è il giocatore che è più capace di emozionare il tifoso della Roma, di far vedere qualcosa per il presente, ma anche lasciare intendere delle promesse future, e credo che in questo momento, nel momento di dubbi, vendere la speranza sarebbe l'errore obiettivamente più grave che si potesse commettere. Pallotta nella Roma non ha sbagliato molto dal punto di vista sportivo, perché è vero che ci ricordiamo negli occhi questa stagione molto altalenante e probabilmente non esattamente riuscita, visto che la Roma aveva come obiettivo assoluto il quarto posto, come stella polare il quarto posto, e non l'ha centrato. Però bisogna ricordare che nella gestione Pallotta è arrivata una semifinale di Champions League, sono arrivati un numero considerevole di secondi posti, a cui la Roma era abbastanza abituata anche prima, ma che non sono ordinari nella storia di questa società. Poi certo, ha sbagliato probabilmente, secondo me, dal punto di vista dell'arroganza, nel pensare di non sbagliare mai. E questo forse è l'errore più grave che è stato commesso da lui, da molte delle figure a cui si è affidato per la gestione societaria, e per carità è molto comune nel calcio italiano e non solo per l'italiano, però è un errore. C'è stata quella sensazione fisica di lontananza da Roma e dalla Roma, che evidentemente nessuno dei dirigenti messi lì è stato capace, da Sabatini prima e poi, di riuscire a colmare in qualche modo con la sua presenza fisica, e questo sicuramente ha aiutato a sfilacciare i rapporti tra Pallotta e tutto l'ambiente. Grazie Matteo. Grazie a ciao. Voi. Buona ciao, giornata. Ciao. Grazie a Matteo Pinci, Repubblica 800 24 00 24. Vi dico già che dopo le 15 parleremo di MotoGP, perché c'è l'ufficialità del forfè di Marquez al Gran Premio di Repubblica Ceca Brno, c'è il nome del suo sostituto, ma proveremo un po' a fare il punto anche della situazione di un moto mondiale che a questo punto ben difficilmente vedrà la conferma di Marquez, e quindi si aprono nuovi scenari. E poi avremo, carissimo Pier, se vuoi ascoltarci, Clemente Russo. Ciao. A un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, che potrebbero essere per lui delle Olimpiadi da record. Antonio da Macerata. Antonio? Niente, c'è qualche problema. Lorenzo da Savona. Lorenzo? Sì, pronto? Buongiorno. Grazie per la convocazione. Io appunto volevo parlare di nuovo di Conte. Io sostanzialmente mi stupisco quando la gente appunto si stupisce delle esternazioni che Conte fa tutte le volte che va davanti ad dei microfoni. Nel senso che Conte ormai lo conosciamo da anni, sappiamo che è un allenatore preparatissimo dal punto di vista tattico, ma come comunicatore oggettivamente ha delle lacune. All'Inter sono stati abituati appunto a gente come Mourinho. Un allenatore come Mourinho, probabilmente io non lo metto non sullo stesso piano di Conte per quanto riguarda la preparazione tattica, ma come comunicatore sicuramente su un livello superiore. Diciamo che secondo me Conte, come diceva giustamente Pier, non ha dei retropensieri, non ha, diciamo, delle offerte da altre squadre, semplicemente non sa perdere e soprattutto non sa comunicare. Dovrebbe da questo punto di vista, secondo me, migliorare in questo ambito per essere un allenatore da top top club. Sì, posto che top top club c'è già stato, quindi non è che non sia un allenatore da top top club. Certo, c'è già stato e anche vinto. Aveva evidenziato gli stessi problemi anche nei top club in cui è allenato, sia la Juventus che al Chelsea. Appunto. Certo, Fausto da Lodi, Fausto. Sì, buongiorno. Allora, sarò breve anch'io. Due cose. A me la retromarcia di Conte di ieri è sembrata suggerita da qualcuno che gli ha detto forse è esagerato, attenzione che questi potrebbero anche licenziarti. E due, stramaccioni in Iran, quando gli hanno tolto il passaporto e quasi messo la tuta arancione, non si era lamentato così tanto. Punto. Sì, potremmo fare 2000 battute, no, Pier, su questa cosa. Però ripeto, io penso una cosa, che uno Conte lo prenda pure perché sa che si lamenterà. e questo diventa uno stimolo. Poi ripeto, non è una cosa giusta, non ha neanche particolarmente ragione, perché secondo me l'Inter gli ha dato il 70-80% di quello che voleva, di quello che plausibilmente poteva dare. Ci sono altri allenatori che secondo me, prima parlavi di Fonseca, che hanno lavorato in condizioni sicuramente più complicate. E Sarri non ha una squadra sarriana, tanto per fare un esempio. Inzaghi ha una squadra che, se avesse avuto qualche cambio in più, poteva vincere il campionato. Cioè, ognuno ha i suoi problemi. A Conte hanno dato tanto, secondo me, quest'anno. Poi sicuramente su Eriksen non era la sua prima scelta, voleva Vidal, ma Vidal non si è mosso, quindi di che parliamo? Però ripeto, secondo me è un grande allenatore, è un incontentabile, è uno che sta lì e uno dei suoi pregi è anche questo suo essere un martello con i giocatori, ma anche con la società. Avrà fatto piacere a Zhang sentire quelle cose? Assolutamente no. Avrà mancato di rispetto a qualcuno? In qualche misura sì, perché sicuramente li ha esposti a una situazione non facile. Però io penso che alla fine fosse una roba costruttiva di un allenatore che non vuole smettere con l'Inter, ma che vuole stimolarla a continuare a crescere. Massimo Macerata. Massimo. Sì, salve. Vai. Vorrei anche fare una domanda su Conte. Sì. Perché secondo me lui voleva dire che la società doveva imporsi di più per quanto riguarda il calendario, perché secondo lui la Juventus è stata leggermente favorita con 3 o 4 giorni di riposo in più rispetto a loro, ed è questo che lui voleva dire, che siamo arrivati a un punto e si poteva vincere lo scudetto se c'era la società stile Juventus, e secondo me la Juventus comanda un po' in Lega. Sì, però parte il fatto, ma posso dire una cosa su questa roba della Lega, perdonatemi Massimo e Pier, no, nella Lega, nel Consiglio di Lega ci sta più l'Inter della Juventus, cioè ci sta Marotta, ci sta Antonello. Allora, non è che Marotta, dopo 40 anni di carriera, siccome adesso è amministratore delegato dell'Inter, non conta più nulla, e fino a un mese fa invece era il dirigente più potente d'Italia. Ma no, andiamo avanti, vai Pier. Ma no, poi Sarri 3 giorni prima si era lamentato, ti ricordi? Dopo Cagliari sì, Juve sì, si era lamentato. No, tre giorni dopo. Siamo stati gli unici a fare 5 partite in 12 giorni prima della Champions League. Dopo Cagliari Juve. Conte l'aveva fatto dopo Roma Inter. Sì, no, ma io voglio dirti, queste sono cose, ripeto, ognuno poi se ne ha a vedere i calendari. Sicuramente, come ricordi, quel giorno con Trevisani abbiamo fatto il conteggio dei giorni, sicuramente fino a Roma-Inter l'Inter aveva avuto meno riposo, ma era dovuto anche al fatto che aveva una partita in più da recuperare. Può sembrare una cosa piccola, ma era in realtà una partita in più che quindi ti portava col calendario a essere su 42 giorni, un conto se fai 12 partite, un conto se ne fai 13, ti cambia proprio significativamente. Quando lascerai perdere questi ragionamenti, volerai più alto. E vabbè, dai, te l'ho detto. Insomma, Osvaldo Firenze, poi vediamo, Osvaldo. Magari quest'estate va alla Juve e allora non ci ho capito nulla io. Abbiamo capito a quel punto zero. Chiederò bene. Osvaldo. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, vai. Intanto un saluto. No, volevo dire, la lettura sull'intervento di Conte, secondo il mio punto di vista, può avere altri risvolti, e cioè lo stacco che lui vuole e dimostra di volere dalla società non serve altro per rafforzare ancora di più il legame con la squadra. Non a caso lui, nella conferenza stampa in cui ha esternato le sue critiche, le ha indirizzate esclusivamente alla società, tenendo ben in mente di sottolineare che non è una questione di mercato, e altrettanto tenendo ben in mente di sottolineare che i ragazzi hanno dato tutto. Quindi il messaggio qual è? Noi come squadra continuiamo a dare tutto fino alla UEFA League. Se dovessimo vincere la UEFA League, nessuno salga sul carro dei vincitori. È un messaggio che serve per rafforzare la posizione di Conte, e poi vedremo se a quel punto, con il punteggio che ha ottenuto in classifica, con la vittoria dell'Europa League, se qualcuno in società potrà qualcosa dire niente. Io non lo so, Osvaldo, se è così. Di solito il rumore dei nemici, i nemici sono quelli che stanno fuori. Per Conte l'altra sera i nemici stavano anche dentro e si trattava sì, di fuoco amico. È vero che lui da mesi difende la squadra, questo è vero, ha ragione l'ascoltatore, cioè sono mesi che lui spinge moltissimo sul fatto che non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi, insomma, ripeto, sono logiche di spogliatoio. Sì, sì, Sì, se, io Pier, poi ti saluto, se fossi però un giocatore dell'Inter avrei anche un po' di mal di testa, perché 10 giorni prima mi hai definito un pacchetto preconfezionato e quindi anche lì magari faccio un po' fatica a tenere tutto insieme, ma tanto abbiamo da parlarne tutta la settimana. Ciao, a domani. Ciao. A domani. Domani proviamo a non parlare di Conte, ma sappiamo già che non ce la facciamo, perché poi questa sera dovrebbero esserci altre parole da aggiungere a questo tormentone. Ci fermiamo, breve pausa, quando torniamo motori, Clemente Russo e poi ancora voi, 800 24 00 24. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24, 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Clemente Russo is it. The Italian explosive fighter. Feeling good, boxing well. The world champion again from Italy, Clemente Russo. Quando si arriva secondo in uno sport da combattimento, hai perso la finale, quindi esci sconfitto. Dopo, diciamo, il match della finale, sei comunque amareggiato, sei arrabbiato. Però poi, appena si smaltisce, capisci il valore di quella medaglia e non c'è gara che possa superare, diciamo, l'Olimpiade. Clemente Russo ha vinto! Ed è sicura medaglia d'argento! È in finale! Era sull'orlo del KO! Alla seconda ripresa Clemente Russo, ma non si è arreso mai Clemente Russo e ha disputato un terzo round straordinario. Io sono un po' come un diamante che ha tante facce ma nessuno in contrasto tra di loro. Mi piace fare tutto, ma purtroppo noi non siamo calciatori. Mi piacciono le telecamere, mi piacciono gli schermi, mi piace stare a centro dell'attenzione, perché lo sono stato fin da bambino, sempre un po' ecocentrico, diciamo. Poi devo dire la verità, l'ho fatto anche per il pugilato italiano. Allora, adesso parliamo un po' di altro, non soltanto di calcio. Saluto Giovanni Bruno, ciao Giovanni. Ciao Giovanni a te, grazie della chiamata. Allora, ci pensi che tra un anno in queste ore saremo alle battute finali dei giochi di Tokyo? Fa un certo effetto, no? Fa parecchio effetto, anche perché per il prossimo anno, io già mi facevo quest'anno come cosa per vedere veramente uno spettacolo diverso. Però l'attesa ci sarà, ma sarà una splendida Olimpiade. Ci sarà, speriamo tutti, anche Clemente Russo. Ciao Clemente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sarai, ciao, vero? Ciao. Clemente, ci sarai, vero? Alle Olimpiadi? Sì, farai di tutto per esserci. Perché anche a noi sono stati rimandati i tornei di qualificazione olimpica tutti all'anno 2021, quindi marzo e maggio prossimo, e le Olimpiadi poi quindi subito a ridosso. Ti fa un certo effetto pensare che tra un anno oggi, se tutto va bene, sarai veramente nelle ore quelle che poi portano le medaglie? No, quello sicuramente, poi io ci sono un po' pure abituato, ho fatto 4 Olimpiadi, quindi andrò a fare la mia quinta se tutto va bene. La cosa che più mi dispiace è aspettare un anno in più, perché comunque era tutto pronto per farle quest'anno. L'età ci sta, ho 38 anni, quindi l'anno prossimo ne avrò 39, quindi sarà tutto più difficile, quindi però mi sto gestendo al meglio già da adesso. Giovanni, qual è secondo te, da osservatore esterno ma che conosce tantissime storie come quella di Clemente o come quella di tanti altri atleti, la benzina che porta qualcuno anche sulla fase finale della sua carriera a dire va bene, vado avanti un anno perché quello è un obiettivo e non posso mancarlo? Sono i 5 cerchi. Allora, è la magia, reputo che sia la magia dei 5 cerchi, la magia dell'Olimpiade, la magia di un'ipotetica cerimonia che tu sfili all'interno di uno stadio, di un villaggio olimpico, di tutto ciò che circonda i giochi olimpici. Tra l'altro, Clemente, può anche essere un alfiere olimpico, vista l'età, vista l'esperienza. Incrociamo le dita, diciamo che se la gioca con un altro, passami il termine Clemente, un altro vecchietto, un Aldo Montano, va, che a me non mi dispiace niente, no, perché hanno fatto pure, realmente no, la storia. Direi oltre Aldo, direi anche Giovanni Peliello. Anche fatto perché sì, ma quindi... siete tutti, forse l'unico qualificato è Aldo, perché sia Giovanni che te dovete ancora passare un turno. Però ecco, insomma, io punterei sui tre, passami il termine Clemente, grandi vecchi del nostro sport. Il nostro sport. Per quanto riguarda quello che spinge una persona come Clemente, l'abbiamo sentito nella clip che ha preceduto, in quelle voci. E quando sali sul ring olimpico non c'è nulla da fare, perché è qualcosa di troppo importante nella carriera di un pugile. E poi anche lì, cinque Olimpiadi non l'ha fatta nessuno, diciamo, nel pugilato. No. Ci sono dei passaggi incredibili nella storia dell'Olimpiade del pugilato. Parliamo di Teofilo Stevenson, parliamo di Cassius Clay, parliamo di Sugar Ray Leonard, parliamo di grandissimi personaggi. Clemente e... anche che io metto dentro Cammarelle, sono forse gli ultimi due che il Cammarelle non ha chiuso, Clemente rimane sulla breccia, grandi personaggi del nostro pugilato. Io aggiungo anche una donna, aggiungo anche Irma Testa, che mi piace da un punto di vista di valore campano al femminile. Quindi per me Clemente, tanto di cappello, se ci riesce sarei felicissimo. Speriamo bene, incrociamo le dita perché comunque ci sto, resta il sogno di una vita e il lavoro di una vita, perché come ben sapete le Olimpiadi vanno preparate non in un mese ma in quattro anni, no? Sono preparate in quadriennio olimpico, io che ne ho fatte quattro, quindi questa è per la quinta, 5 per 4 fa 20, sono 20 anni che lavoro per questo sogno olimpico, per quella medaglia d'oro che mi manca, quindi diciamo la medaglia d'oro potrebbe arrivare il Guinness World Record, che è quello delle 5 Olimpiadi, vicino a questo può arrivare l'alfiere, quindi veramente sarebbe un bel bottino, non un bottino diciamo dei pirati, quindi un bottino d'oro, ma un bottino pieno di soddisfazione umana e personale. Anche se l'oro può diventare un po' un'ossessione. Assolutamente sì, però. Ma buona sto o no? Lavorando per questo. Perché solitamente per ossessione, insomma, c'è una declinazione negativa, no, del termine ossessione. No, per me l'ossessione è solo una motivazione, assolutamente. Giovanni? Io penso solo a uno sport che a noi ci manca un oro, che è una cosa importantissima, ed è la pallavolo, no? La famosa maledizione dell'oro, due medaglie d'argento, quando c'era la nazionale super forte, parliamo di quella di Velasco, dei Zorzi, dei Lucchetta, ci è mancato. Ecco, quella può essere un concetto di maledizione, però l'Olimpiade è proprio questo, cioè tu arrivi da favorito, sei un grande favorito, e poi puoi anche mancare quell'appuntamento. Clemente non è un favorito fondamentalmente per la prossima Olimpiade, perché bisogna anche essere obiettivi, però c'ha dentro questa grandissima voglia, l'avete sentito, quindi di conseguenza è il famoso outsider che vorresti vedere salire sul gradino più alto del podio. Nella storia c'è questo, nella storia dell'Olimpiade, cioè quando te l'aspetti della grande vittoria lo confermano tanti altri, ma lo stesso Andy Murray, che recentemente ha dichiarato che vuole ancora gareggiare con l'Olimpiade, e ne ha vinte due, e forse era previsto per quella di Londra, non certo per quella di Rio. Sì, perché poi tu hai fatto 4 Olimpiadi che sono state 4 storie diverse, 4 approcci diversi, e sei cambiato tu, perché sei cresciuto e è cambiato anche il mondo intorno, no? Sì. Ce n'è qualcuno a cui sei legato particolarmente? Vabbè, ovviamente quelle che sei legato sono quando fai i risultati, è normale, quando arrivano le medaglie il ricordo è sempre più vivo, però comunque ognuna ha la propria storia, cominciando dalla prima che avevo solo 22 anni ad Atene, finendo a quella di Rio che è finita male per un brutto furto che mi hanno fatto nei quarti di finale, quindi mi sono giocato la medaglia con ingiustamente, diciamo, una torta. Quindi ogni Olimpiade c'è la propria storia, però comunque quella che ricordo con più, diciamo, emozione forse quella del 2008, perché era la mia prima medaglia olimpica. Come hai vissuto questo periodo unico che almeno temporaneamente ci siamo lasciati alle spalle? Ma io quando poi ho saputo che, quando ci hanno rimandato a casa, perché io ero a Londra per il torneo di qualificazione olimpica, e voi siete stati gli ultimi a mollare tra quando gli poi sportivi. Ci hanno rimandato a casa, ho detto bene, adesso stacchiamo la spina e comincio a pensare come pensavo l'anno scorso di questo periodo, quindi è molto lontano dall'Olimpiade, dalla qualificazione, mi rilasso, mi godo la famiglia, e così ho fatto, e mi alleno poco per mantenermi. Quello che sto facendo in questo periodo, mi sto allenando duramente, ma mi sto allenando una volta al giorno. Come voi sapete, noi ci alleniamo, noi atleti olimpici alleniamo due volte al giorno, tre volte al giorno, mi alleno una volta al giorno e sto facendo un allenamento di mantenimento. Da settembre, quindi, che mancheranno 7-8 mesi alle qualificazioni olimpiche, metterò la marcia dentro e andrò dritto. Si comincerà a rialzare i ritmi, ma di lavoro. Altrimenti, cioè, questo è perché è solo dettato dall'età. Ho 38 anni passati, l'ho compiuto l'altro giorno, una settimana fa, quindi bisogna anche stare 39, attenti. Quindi assolutamente non voglio andare in super allenamento, non voglio andare in saturazione, non voglio andare sotto stress, quindi mi gestisco come so. Devi mantenere la dieta. Come? Devi mantenere la dieta. No, vabbè, ma la dieta è quella... A 38 anni la fai tranquillamente, perché comunque tutti gli spizzi che hai fatto da bambino, da giovane, li hai passati. Oggi puoi stare anche bene, sai che se nel corpo ci metti una benzina giusta, lavori in un modo, se ci metti una cosa che non va bene, lavori tutt'altro. Quindi so quello che mi serve e so quello che non mi serve. Clemente, in questi mesi hai avuto anche tu, noi qui l'abbiamo avuta dalla radio, ne abbiamo parlato spesso, anche settimana scorsa ad esempio, proiettandoci su cosa rischia di succedere a settembre al mondo dello sport e non soltanto del calcio. Hai avuto un po' l'impressione che lo sport in questi mesi troppo spesso sia stato relegato alla seconda, alla terza fila del dibattito? No ragazzi, purtroppo questo è un periodo di emergenza e dall'inizio per me è stato giusto bloccare tutto. Non è stato giusto poi un po' più avanti, quando alcuni sport sono partiti, altri no, questo no, però per la sicurezza, per l'incolumità fisica e per la cura del virus, per me è stato giusto quello che è stato fatto. Perché ci dicevano Giovanni, Sandro Campagna, Mauro Berruto, ne abbiamo parlato venerdì scorso, a settembre attenti, arriva uno tsunami sullo sport italiano come l'abbiamo conosciuto, cioè c'è il rischio che restino solo le macerie. E per sport io intendo chi andrà alle Olimpiadi, a scendere fino all'attività di base di milioni di ragazzi, bambini. Ma io questo non te lo so dire, però quello che ti posso dire è che io ho letto la dichiarazione del presidente del Comitato Olimpico dell'Organizzazione dei Giochi Olimpici, Mori, il giapponese Mori, dove dice che se per febbraio-marzo, quindi la primavera prossima, non esista un vaccino per il Covid e non oppure senza vaccino, ma non si siano portati casi zero nel mondo, l'Olimpiadi salta. E questa è una dichiarazione scritta del presidente, quindi sicuramente si potrà mutare in uno tsunami se i nostri scienziati non si inventano qualche cosa. Giovanni? Ma sai, lo tsunami, io farei più un altro distinguo molto importante, al di là della situazione reale che ci può essere di un... Perché noi in Italia stiamo andando bene, discretamente bene, è chiaro che fuori in questo momento, se vai a vedere i numeri degli Stati Uniti come i numeri del Brasile. O come i numeri dell'America Latina, insomma è abbastanza grave come situazione. Il Giappone è una specie di saliscendi, ma con non enormi quantità di casi. La realtà è diversa, che cosa ne è, come ne esce lo sport in funzione di quello che tu dicevi, Giovanni, sulla questione, diciamo, di recupero totale, e che quanto si è perso da un punto di vista di crescita giovanile, dalle palestre alle scuole di sport, a tutto ciò che è un contorno, perché molti hanno ripreso, certamente. Io ti ripeto, mi hanno quasi abituato e mi sto quasi abituando a vedere il calcio senza pubblico, anche se queste partite ogni santo minuto mi hanno nettamente disamorato. Come vedere per esempio le strade bianche, la prima grande corsa che si è rivista, e vedere esattamente qualche minuto prima che la televisione ha ritrasmesso le vecchie strade bianche degli anni passati, con la quantità di gente che incitava i corridori sull'ultimo strappo a Santa Caterina prima di entrare a Piazza del Campo a Siena, e rivederla totalmente deserta mi ha lasciato un bel po' d'angoscia. Ma bisogna fare un ragionamento: quanto si perde e quanto bisogna ricostruire con le scuole giovanili, con la parte dei giovani che sicuramente hanno perso parecchio dalle palestre del pugilato, come quelle del judo, proprio per raccontare una grande amicizia che c'è anche diciamo nella Napoli di Clemente Russo e di altri grandi personaggi, ma soprattutto anche le scuole di ciclismo, le scuole di scherma, cioè ritorneranno? Ritorneranno nelle palestre? Cioè, altro che Stato, ci vuole veramente un ministro dello sport, passami il termine, che abbia la capacità nel gestire anche queste cose, non solo la questione di voti o quanti anni deve rimanere un presidente. Mm. Sì, ma io credo che sia anche una questione di noi genitori. Io parlo come vi parlo come genitore di tre bambine di 9 e 2 gemellini di 7 anni, che anch'io sono un po' preoccupato, ma sono preoccupato anche per l'inizio della scuola di settembre. Immagino come non possa essere, che è una cosa sicura la scuola, no? Immagino come non possa essere preoccupato per le palestre o delle scuole di ballo, ok? Quindi è una preoccupazione un po' globale, che spero, come dicevo prima si risolvi il problema, almeno in Italia, parliamo del nostro Stato, no? Almeno in Italia prima siamo tutti più tranquilli, ma sicuramente tutti i genitori sono preoccupati per mandare, ecco, i bambini nelle scuole di pugilato, di judo e quant'altro. Sì, a riprendere l'attività che facevano, che hanno fatto fino a febbraio. Mi prendo l'ultimo minuto di Clemente Russo, che poi lascio al suo allenamento blando. Fino a un certo punto, insomma, di questo periodo, per chiedergli se è preoccupato anche per il Napoli che va a Barcellona. Non vi ho sentito. Se sei preoccupato anche per il Napoli che va a Barcellona. No, ma la squadra ci sta. Sono molto, molto fiducioso. Sono molto fiducioso e sicuramente non ci sono tantissime pretese, però è una partita che mi gusterò. E poi ti piace Gattuso? Sì, molto. La cosa più bella e più la soddisfazione più grande che ho avuto è quando qualche giorno fa ho letto su, non mi ricordo che testata giornalistica era, che Gattuso era l'uomo ideale per il Napoli, ma io questo l'avevo detto appena l'hanno preso, perché comunque il Napoli viveva un momento di spogliatoio molto particolare, con dei galletti nello spogliatoio, e quando un galletto trova un allenatore che gli fa fare tutto va bene, oppure che si sta zitto va bene, ma quando invece trova uno duro, più duro di lui, la cosa si mette a posto. E quindi io lo dico come uomo di spogliatoio, come capitano della nazionale, e quindi so quello che succede negli spogliatoi, e l'allenatore fa tanto a fianco a un galletto o un capitano, quindi Gattuso, ottima scelta. Sì, c'è stato qualche galletto di troppo quest'anno dentro l'ambiente Napoli. C'è però da dire che le potenziali città c'erano, e comunque vada, la stagione del Napoli, insomma, portata a casa la Coppa Italia, è una stagione certamente positiva. Grazie Clemente. Grazie a voi, un buon pomeriggio. Ciao, grazie a Clemente. Mi tengo ancora un minuto Giovanni Bruno, perché voglio fare una domanda su Marc Marquez, poi vireremo sui motori. Intanto Lorenzo da Pavia, Lorenzo. Sì, buongiorno, scusate, ciao, buongiorno. Intervengo su un argomento calcistico, state vai. Parlando e sento comunque con tema tanto libero, tema libero, vai. Ecco, io volevo fare questa domanda sul gap che c'è tra la Juventus e le altre squadre, che forse un po' per questo arrivo a un solo punto dell'Inter, altre squadre nel lockdown hanno fatto meglio della Juve, magari qualcuno può pensare che si sia ridotto questo gap tra le squadre, invece secondo me no, e quindi penso che Inter, Milan, tutte le inseguitrici per la prossima stagione devono rinforzarsi e fare ancora molto meglio di quest'anno. Tutto qua. Lorenzo, io credo che il gap tra l'Inter e la Juventus si sia ridotto, e si partiva da oltre 20 punti. Un punto è però un'illusione ottica, non so la sensazione che ha Giovanni. No, abbiamo perso Giovanni Bruno, che allora ringrazio. Va bene, allora andiamo sui motori. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. E dai, ci hai provato. Quando hai passione per qualcosa, quando hai questa intrega, si deve provare. Questa è sempre la mia mentalità, e soprattutto quando mi hanno fatto l'operazione, sempre ho stato realista e sempre ho provato di capire il mio corpo. sempre sono ottimista e questo è quello che ci vuole, e se hai passione per qualcosa è quello che ho detto, no? E devi provare, così oggi quello importante per me è che posso dormire tranquillo, che non posso. Questo era Marquez dopo aver cercato di rimettersi in corsa a Jerez 4 giorni dopo la frattura, l'operazione a Barcellona, tentativo abortito dopo di fatto un solo giro delle prove ufficiali del Gran Premio di Andalusia. Ieri la notizia che è tornato sotto i ferri perché la placca si era danneggiata e quindi probabilmente anche quel tentativo in qualche modo si è rivelato un autogol. Saluto Antonio Boselli, Sky Motori, ciao Antonio. Sì, ciao Giovanni, buongiorno. Io devo dirti che non trovo una sorpresa che correre o provare a correre a 4 giorni da una frattura come quella di Marquez possa in realtà alla fine essere un tentativo rischioso che non solo non riesce ma ti espone ad altri problemi. Ma sì, diciamo che allora è una situazione abbastanza complicata perché comunque i piloti, e lo abbiamo visto nel passato, sono portati una volta che hanno una rassicurazione da parte del medico che non ci possono essere delle ulteriori conseguenze, sono portati proprio a scendere in pista anche in condizioni che per noi umani, consideriamoci tali, non penseremo mai. Nei fatti però, questo caso specifico, probabilmente a Marquez è stato dato un ok, non tanto quando è arrivato in circuito per la classica visita medica, quella che si fa il giovedì per essere dichiarati idonei, fit, ma secondo me è stato proprio appena uscito dall'operazione, quando lui è tornato in camera, ha chiesto come è andata l'operazione, ecco, in quel caso avrebbero dovuto essere subito chiari e dire guarda, non corri domenica a Jerez, ma l'operazione è andata molto bene. E invece l'unica cosa che ho sentito dire è stata l'operazione è andata benissimo. È ovvio che se tu dici questa cosa a Marc Marquez, che è un cannibale ed è un pilota abituato a vincere le sfide, anche quelle più impossibili, ovviamente lo hai messo nella condizione di dire va bene, allora proviamoci, e così ha fatto. Però ecco, c'è stata un po' di leggerezza, anche perché io penso che a volte, insomma, anche la tesi dei piloti supereroi per i quali non valgono le leggi normali della fisica o anche le leggi mediche, a volte si è anche un po' frutto di una narrazione acritica, cioè quando si rischia troppo, si rischia troppo per sé e per gli altri. Sì, diciamo che allora qui poi si innesta anche un altro tipo di ragionamento sull'operazione in sé. Io non sono un ortopedico e non sono un chirurgo, però ricordiamo che è stata inserita una placca per una frattura all'omero che era abbastanza, passami il termine, pulita, nel senso che non c'erano diversi punti di frattura, ce n'era uno solo. Probabilmente, così l'ha detto anche il dottor Costa, che sappiamo essere luminare, che ha lavorato tantissimi anni nel motomondiale con la clinica mobile, dice era meglio un chiodo. Quindi quello che voglio dire è che probabilmente il fatto di essere tornato in pista così in fretta, tra l'altro con un tipo di operazione con la placca, ha portato a questo tipo di situazione. Poi la cosa poi interessante è che secondo me la placca si è diciamo deformata, non tanto forse per la pista, perché sono sicuro che qualche visita di controllo l'abbiano fatta dopo il Gran Premio, ma evidentemente nelle ultimissime ore, perché l'operazione è stata decisa ieri. Quindi verosimilmente anche Marquez ha lavorato su questo braccio in maniera forse eccessiva, però ripeto, secondo me è una condizione di partenza che era forse sbagliata, cioè quel tipo di operazione con quella placca lì necessitava forse di più tempo di recupero rispetto a quanto si immaginassero. Il risultato è che salta Brno in questo fine settimana, credo debba saltare anche le due in Austria, 16-23. Allora, questa è una bella domanda. Il ragionamento e il buon senso mi farebbe dire di sì, perché se tu hai accelerato e di fatto complicandoti la vita e allungando i tempi di recupero, e considerando il fatto che comunque il mondiale, non dico che sia perso, ma lo sarà probabilmente se salta Brno, mi verrebbe da dire che salterà anche quantomeno la prima dell'Austria. Però aspettiamo e vediamo, sarà interessante anche capire che tipo di intervento hanno fatto, cioè se hanno sostituito una placca con un'altra placca o se hanno fatto qualche altro tipo di intervento, e ricordiamo che Marco in questo momento è ancora in ospedale, quindi quando ci sarà un quadro clinico un po' più definito si capiranno i tempi di recupero. Però spero a questo punto che recuperi nella migliore condizione possibile, tanto forse questo campionato è andato. Ecco, noi possiamo dire che è ragionevolmente fuori dal mondiale, il che apre alla domanda di chi possa essere questo mondiale, cioè chi ne può approfittare, se la Yamaha o la Ducati, se Quartararo o Dovizioso. Allora, innanzitutto ricordiamoci una cosa, che guardando il scorso campionato, Marquez nelle ultime 12 gare credo abbia fatto 8 vittorie e 4 secondi posti, quindi diciamo che se tornasse, è chiaro che se saltasse, però no, e le due gare dell'Austria, la situazione sarebbe chiaramente compromessa. Però solo Bruno, quello è veramente un pilota. Però partendo da meno 70, sì, più o meno. Sarebbe cioè sarebbe, se Quartararo arriva secondo, io non dico se vince. Sì, diciamo che Quartararo comunque ha fatto le prime due vittorie nelle prime due gare ed è in una forma eccezionale. Io, poi chiaramente mettiamoci anche Vinales, che ha fatto due secondi posti. Io onestamente in cuor mio vorrei tanto vedere un Dovizioso che finalmente su una pista come Pernod, dove comunque ha vinto un paio di anni fa, e soprattutto le due piste dell'Austria dove la Ducati ha sempre vinto, ci faccia sognare, perché noi abbiamo bisogno, è un'occasione veramente più unica che rara il fatto di poter lottare per il mondiale senza avere in pista Marquez, questo dato di fatto, quindi spero che Dovizioso veramente ci faccia sognare. Poi risolve anche questa cosa contrattuale che sta diventando estenuante, insomma andrebbe a sistemare un bel po' di situazioni. Però a questo punto io dico che il favorito è Quartararo, perché ha una maturità, nonostante sia 21enne, pazzesca, ha dominato le prime due gare, e quindi lui è il candidato naturale per lottare in primis per il mondiale. Grazie Antonio. Grazie a te Giovanni. Grazie ad Antonio Ciao. Boselli. Nel fine settimana, dunque, l'appuntamento con il Gran Premio di Repubblica Ceca. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Paolo Corleone in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. L'appuntamento è domani alle 14 con il solito tradizionale format di questo mese di agosto fino alle 15.30. Ciao! Venga, è stato una montagna russa. Grazie ragazzi, grazie, andate in vacanza, divertitevi perché ve lo meritate. Ok. Saluti!